amigo mio. Ele havia 147 sfenio, tio. Penei e rodas feni, motoreto que bruseia óleo, vê nas puxas na fumaceira que mais. E um dia, ele já impianta su tudo que ele podia para andar alle praia, alle acque. E andava via banda litoral gaúcho. Gaso, ajeitar bem ele alto e tal. Ele andato, tio. Pim pianeto, 70-80, 70-80 na folga, pelo amor de Deus, que mais, não? E ciò se foi. Quando l'è andata a Rento te a Freeway, questo 147, l'era solo bibite qua, bibite là, bibite qua. Lui ci appia costamento l'urtea di Dio, ci appia in qua l'urtea di Dio. E lo caparà in qua e in là, finché un colpo là il motore che mi ha resistito, fundio le biele. Stazionà là il 147, desmonta socio, le rode tutte sporte, penei careca. Ma lascia star che l'era un uomo prevenio. Ma il motore una fumacera di quel, e costa l'auto là, di quel viene una Mitsubishi. Un uomo ben postato, un elegante che mai, una baita una camionettona Mitsubishi, che ha detto, ciò ti vedo dove? Alle praie, ma confinio tutto qua. Pianga, dito. Tutto che c'è una soluzione. Era un menetto buon, questa Mitsubishi. Gai in costa, che tu fermo come? Non posso lasciare la mia auto, l'unico patrimonio che ho non lo lascio qua. Allora fermo come, dito. Ben, ha detto, come amico un auto vecchio sono un prevenio, via de drigo tutto. L'hai che aveva il galon, la manghera, la corda, due macachi, quattro sterpi, l'era pieno di manutenzione per questo auto. Ci ho da drigo, ciappa la corda, ingancia de drigo da Mitsubishi, so che ha detto pin pianeta. Per l'amor de Dio sta mia passare di 80, perché che una folga grande, rode, penei tutti malciapai, va me pin pian. 70, 80, freeway, fu embora. Là de una schianta viene un cristianetto, là tutto di quei, ti sei magrano, lì, là. Pardaghe pau, na BMW è incostata a banda da Mitsubishi che ha fatto. Segnale di fare un pega. Ah, non deu. E se ga metesti, tio. De 70, 80, 90, 100. 90, 100, 110, 120. E foi, tio. E foi, e ciapa e non ciapa. Quell'altro di Drio, per l'amor di Dio. Mi ha buon testo 147, tio. Verde alla porta, tiri a sarea. E va, se vede che la porta, tiri a sarea. Verde al portamala di un solo avanco. Bum, se sarea anche a quello. E foi, tio, 120, 140, e pega, non pega. E Lugas comincia a segnare di luce, perché l'altro si fermi a 160, 180, e foi, e pega, non pega, e pega, non pega. BMW, Mitsubishi, passa via, pulisce, era dove era. E c'era quasi 200 parole, lui era più buon. Sudori di morte che mi erano. Mi ha buon tenuto la strada. E pega, non pega, e foi, che non foi. Passa via polizia dove era, quella polizia dove era, Gacciapal e Radio Amador, ligata a centrale, che ha detto, comandante, per l'amor di Dio, che ha detto, che passa via qua una Mitsubishi, una BMW, mai o meno a 200 per ora, e giuro per me mamma che di Dio che era un 147, che dea segnale di luce per passare.